ci parlano, problemi e sguardi che si incontrano. Ma tu dove sei? Ma tu dove sei? Faccio finta di ascoltarle intanto che penso a te. Le donne degli amici ridono, beate loro si divertono, ma tu dove sei? Ma tu dove sei? Ricomincia il viaggio verso sere. Espressione indifferente adesso che...